Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Da anni vivo e lavoro altrove. E da anni scrivo di chi, come me, poco dopo la laurea, si è buttato alle spalle un presente di file interminabili e un probabile futuro da stagista. Ha preso la borsa del computer al posto della valigia di cartone ed è emigrato. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Claudia Cucchierato, giornalista italiana in Spagna, ci introduce alla puntata odierna col suo documentario Vivo Altrove, appena presentato al Festival del Giornalismo di Perugia. La frase della settimana è copyright di Vito Campese, presidente dell'ISNAF, che in un'intervista all'Opinione ha dichiarato: l'emigrazione negli ultimi 20 anni è cambiata in senso negativo per l'Italia e positivo per le nazioni che invece aprono le porte. È una migrazione più qualificata, ma fatta anche di giovani desperato, sconvinti che nella penisola si vada avanti solo con appoggi politici o familiari e senza regole meritocratiche. Gli emigrati, particolarmente i giovani, vengono in Nord America spinti dalla convinzione di farcela in un mercato aperto, dove intelligenza, determinazione e voglia di fare sono gli ingredienti determinanti. Noi aggiungiamo che la sfida del futuro sarà, anche in questo bel ma devastato paese, importare quegli ingredienti di merito, innovazione e opportunità che determinano il successo all'estero dei nostri espatriati. L'alternativa è sempre più chiara: il declino. L'Italia ha poco peso sulla scena internazionale, l'export è in maggior parte concentrato su prodotti a basso contenuto tecnologico e se non fosse per la posizione geografica non credo che molte multinazionali si fermerebbero lì. Simone Ferrara, 32 anni e patent attorney per Vodafone in Gran Bretagna, della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. E sono anche i nodi, innanzitutto di fronte a un angoscioso crescere della disoccupazione, quelli della creazione di lavoro e della qualità delle occasioni di lavoro, attorno a cui ruota la grande questione sociale che ormai si impone all'ordine del giorno in Italia e in Europa. È la questione della prospettiva di futuro per un'intera generazione. Penso che il Paese abbia bisogno di risposte. Penso soprattutto che abbia bisogno di risposte quella parte del Paese che soffre, quella parte che ha oggi la difficoltà maggiore sul terreno del lavoro, il lavoro che non c'è, il lavoro che si è perso, il senso della povertà che cresce, i giovani che vanno via dall'Italia perché non trovano occasione nel nostro Paese. In apertura due passaggi significativi della densa settimana politica: il discorso di investitura del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e quello del Premier incaricato Enrico Letta, in entrambi riferimenti molto forti ai giovani, anche ai giovani in fuga dall'Italia. Giovani che, come constata pure la politica, pensano sempre più di emigrare. Il 64% sarebbe propenso ad andare a vivere lontano, il 37% ha inviato il curriculum all'estero. Ma come cercano lavoro? Il primo alleato è internet, anche se resistono gli annunci sul giornale. Questi alcuni dei risultati emersi dal sondaggio Work in Progress tra le mete più ambite Francia, Svizzera e Inghilterra. E l'esperienza all'estero è utile per trovare impiego. Secondo l'indagine Close to You, i selezionatori cercano nell'80% dei casi esperienze di stage o lavoro oltre confine tra i giovani da assumere. Permane tuttavia un paradosso tutto italiano: oltre un datore di lavoro su 4 richiede esperienza a giovani che hanno appena terminato gli studi. In Italia il tasso di disoccupazione dei giovani è salito dal 21,7% del 77 al 35,3% del 2012. Oggi i giovani disoccupati sono quasi 4 su 10 secondo l'Istat, record assoluto in 35 anni. A livello territoriale la crescita della disoccupazione giovanile segna un boom nel Mezzogiorno, passando al 47%. La disoccupazione giovanile è tragicamente alta, soprattutto nei paesi del Sud Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Dei 198 milioni di disoccupati nel mondo, ben 74 sono giovani. Lo afferma il direttore generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Guy Ryder. Via libera della Commissione Occupazione dell'Europarlamento allo schema di garanzie comunitarie per i giovani, con una serie di modifiche per ampliarne il numero di beneficiari. Gli europarlamentari chiedono che possano rientrare nel programma anche gli under 30. Ancora un record non certo invidiabile per l'Italia. In Europa è il paese con la quota maggiore, il 12% della forza lavoro, di cosiddetti sfiduciati, persone che non cercano più un'occupazione. Lo ha reso noto Eurostat, siamo superiori di quasi 3 volte rispetto alla media europea. Buone e cattive notizie sul fronte delle imprese giovani. Secondo Affari e Finanza, a inizio aprile le nuove start-up italiane nate nel 2013 erano arrivate a quota 453, con prevalenza in Lombardia, Piemonte e Veneto. Questo grazie anche alle agevolazioni introdotte dal governo Monti. Un vero e proprio boom se si tiene conto che in media ne nascono 1000 ogni 12 mesi. e secondo la Camera di Commercio di Monza e Brianza nel primo trimestre 2013 ben 3.000 under 30 hanno aperto un'impresa, 400 in più rispetto ai coetanei assunti come dipendenti. Si tratta di un sorpasso storico. Contemporaneamente però, negli ultimi anni le imprese guidate da giovani hanno registrato una continua diminuzione a livello generale. Lo sostiene una ricerca dell'Università Ca' Foscari di Venezia, secondo cui in un quinquennio il calo dei giovani imprenditori è stato del 16%, in nord-est l'area più colpita. E secondo un'analisi Coldiretti, il 2013 è iniziato in Italia con oltre 22.000 imprese under 35 in meno rispetto all'anno scorso. La quota di imprese giovani sul totale è scesa ad appena l'11,4% e in atto in Italia un progressivo invecchiamento del tessuto imprenditoriale. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta oltre Manica. Facciamo sempre più spesso tappa a Londra, qualche volta anche per conoscere professioni cosiddette di nicchia. Soprattutto scopriamo all'ombra del Big Ben giovani professionisti allenati ad analizzare con una lucidità davvero impressionante la situazione della madrepatria. Nome: Simone. Cognome: Ferrara. Età: 32. Città di origine: Como. Studi: Ingegneria delle telecomunicazioni e Master in Electrical Engineering. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2005. Per andare dove? Finlandia. Perché? Lavorare come ricercatore. Quale lavoro svolgi attualmente? Patent attorney. Dove? Newbury, ovest di Londra. Tornerai? Non credo, magari una volta in pensione. Repubblica, ready to go. Se domani decidessi di cambiare paese, so già che molte nazioni avanzate quanto ho fatto in passato verrebbe considerato e mi permetterebbe di progredire nella mia carriera. Se invece decidessi di tornare in Italia, nell'80-90% dei casi dovrei aspettarmi di ripartire da zero o, nel caso migliore, dal fondo della piramide. E ciò non è né deve essere accettabile. Simone, il tuo biglietto da visita a Giovani Talenti mette il dito in una piaga che conosciamo bene, quella dei giovani italiani dal curriculum internazionale che un bel giorno provano a offrire le proprie competenze alla madrepatria. Tutti gli sforzi fatti, rilevi con un'amarezza che condividiamo, valgono zero. Sembra una scena da Ritorno al futuro, un ritorno a un paese rimasto bloccato a 30 anni fa mentre il mondo va avanti. Voglio essere drastico: siamo diventati o rischiamo di diventare un paese sottosviluppato? Che è sottosviluppato? Direi sottosviluppante. Mi spiego: da un lato l'Italia è in grado di educare e produrre figure ammirate e apprezzate a livello internazionale, dall'altro non riesce a sfruttare il potenziale di migliaia di giovani educati e spese dello Stato e proprio nel momento più produttivo della loro carriera. Mi chiedo per quale motivo un giovane italiano con iniziativa e spirito imprenditoriale deve trovarsi a affrontare barriere che un pari età in un altro paese non deve affrontare, con l'effetto netto che invece di sviluppare il talento si finisce col sottosvilupparlo. La tua storia, Simone, è davvero esemplare, è la dimostrazione plastica di come all'estero continua il merito e il potenziale dell'individuo e solo quelli. Partiamo però dall'inizio, dalla tua iscrizione al Politecnico di Milano, laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni. Cosa ti porta su questa strada? Siccome era il 1999 e l'industria delle telecomunicazioni era in continua ascesa, con tutto il fascino e le opportunità che ne conseguirono, quella fu la mia scelta. C'è un episodio, tu lo sottolinei chiaramente a Giovani Talenti @radio24.it, che cambia tutto. Nel periodo di stesura della tesi viaggi fino in Finlandia, un grado sotto il circolo polare artico, per lavorare come ricercatore. Quell'esperienza mi fece capire quanto siano grandi le potenzialità di crescita che sbocciano quando si lavora in un ambiente internazionale. Commenti: quale ambiente trovi ad aspettarti? Facci esempi concreti. L'efficienza dell'organizzazione era la prima cosa che mi colpì. Tutto era pronto, l'appartamento pagato dal laboratorio, tutto ciò che mi serviva per iniziare a lavorare. E poi inoltre mi ricordo che provai quasi imbarazzo all'essere pagato per fare ricerca, quando in Italia al massimo potevo aspettarmi un rimborso spese a fine mese. Possiamo capire. Al termine dei 6 mesi artici torni in Italia, ti laurei. Qual è il tuo personale voto all'università italiana? Se il mondo del lavoro richiedesse semplicemente conoscenze teoriche, darei un voto abbastanza alto. Tuttavia il mondo del lavoro richiede conoscenze ed esperienze pratiche e l'università italiana in questo è abbastanza carente. Una volta laureato, le offerte di lavoro che giunsero dall'Italia non riuscirono a convincermi a restare e, per una volta precisiamo, non si è trattato di condizioni economiche indecenti, ma soprattutto di una mancanza, la generale mancanza di stimoli, dici, che percepii in Italia. Era il 2005, 3 anni prima della grande crisi. L'Italia era già allora un paese strutturalmente in difficoltà, senza spinte e stimoli utili a un giovane all'inizio della propria carriera, un paese inconsciamente in coma, per dirla con Bill Emmott. Sì, in coma vigilato direi. Un'Italia che percepì immobile ingessata da anni di mala politica, incapacità decisionale e priva soprattutto di incentivi per i giovani, mentre tutti gli altri correvano. È come se essere un giovane fosse un crimine per sé. E colto da quella che definisci una nostalgia al contrario, ricordando l'esperienza in Finlandia, punti verso l'estero. La tua ricerca si orienta verso il dottorato, anche questo fuori dai nostri confini. La vita accademica in Italia non era abbastanza attrattiva? Non ho pensato neppure un secondo a rimanere in Italia, a parte le storie dei miei coetanei, era la mancanza di competitività interna all'università che mi spaventò. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Scarti un'offerta in Gran Bretagna e un'altra in Australia per scegliere una via di mezzo, Washington University a St. Louis, Midwest americano. Assistente ricercatore e assistente docente, vi resti un paio d'anni, ne è valsa la pena e soprattutto cosa ti ha lasciato quell'esperienza? Sì, molto. La prima cosa è che mi permise di esplorare il mondo accademico statunitense, che è sempre stato uno dei miei fascini. E la seconda cosa è che mi fece comprendere che la vita accademica non era ciò che volevo fare. Alla Washington University ottieni anche un master in Electrical Engineering e nel 2008, pochi mesi prima che esplodesse la bolla finanziaria, decidi di tornare a casa, ma in Europa, non in Italia. Perché? In parte per motivi sentimentali, mia moglie è inglese, ma soprattutto per lo stesso motivo per cui non rimasi in Italia la prima volta. 3 anni erano passati e nulla era cambiato, è come se il mondo si fosse fermato, ma solo in Italia. E mi sono chiesto che senso aveva tornare. E lo vediamo bene ancora oggi. Come riuscire a tornare senza conoscere nessuno in un paese straniero? Come riuscire a trovare un lavoro che mi piacesse e offrisse prospettive di carriera alle tanti ti chiedevi negli Stati Uniti? La considerazione che aggiungi è una delle migliori denunce dei nostri enormi problemi strutturali. Fortunatamente, dici, non mi trovavo in Italia e nessuno mi chiese da dove venivo, chi conoscevo o se fossi pronto a lavorare senza alcuna promessa di futuro. In Gran Bretagna mi fu offerto un lavoro esclusivamente sulla base delle mie capacità e del mio curriculum. Persino il fatto di essere italiano fu considerato un vantaggio. Simone, siamo mafiosi nel senso lato del termine dentro. Se qualcuno non lo conosciamo, se non è dei nostri, non gli diamo opportunità. Sì, questo credo sia il punto chiave. In Italia si ha troppo spesso paura di competere, si ha paura che qualcuno arrivi e ci derubi di ciò che abbiamo accumulato negli anni, ma io credo che così non si vada avanti. La competizione deve essere vista come un'opportunità, perché in fondo che stimoli e incentivi si hanno a migliorare se si ha paura a confrontarsi con gli altri? La tua carriera in Gran Bretagna fila rapida e in questo rileviamo anche l'approccio di mentalità straordinariamente diverso tra Italia e Regno Unito. Ti trasformi da ingegnere in esperto di brevetti, ti reinventi. Perché questa svolta professionale e quale ambiente hai trovato a facilitarla oltre manica? La mobilità professionale è uno degli ingranaggi del mondo anglosassone e da quel punto di vista nessuno si è meravigliato del fatto che io abbia cambiato professione, perché qua il cambiare la direzione di lavoro o cambiare il posto in cui si lavora è visto come un sinonimo di crescita e di miglioramento. In estrema sintesi, ci spieghi cos'è un patent attorney, che è la tua professione attuale? Sì, allora, il patent attorney è multidisciplinare in natura, in quanto richiede sia un background scientifico sia uno legale, e in generale il patent attorney è un professionista legale che si occupa in primo luogo della preparazione, ottenimento, difesa, eccetera, di brevetti per il cliente o l'azienda per cui lavora. Arrivi nel giugno 2008 come trainee patent attorney in uno studio legale londinese. Durante il tirocinio entri nell'organizzazione dei giovani patent attorneys britannici e fino a diventarne tu, italiano e straniero, segretario generale. Già questo la dice tutta. Trascorri l'anno scorso un periodo di distacco negli Stati Uniti, passi l'esame, diventi European Patent Attorney, ultimo passaggio quello a Vodafone. Come ci arrivi e di cosa ti occupi ora? Un annuncio su un giornale, 2 colloqui, uno per capire personalità, obiettivi, l'altro per capire capacità e potenzialità professionali, e nel giro di qualche mese mi ritrovai a Vodafone. Il lavoro che faccio a Vodafone è in pratica la gestione del portafoglio globale di brevetti, ma anche il supporto alle varie parti del business e alle varie aziende operative. Domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Ma la vedo come un paese che ha paura di guardare al futuro e farsi valere sul palcoscenico internazionale. Per me bisogna cambiare la cultura e bisogna indurre le università a competere, incoraggiare i giovani ad essere più mobili ed incentivarli a scegliere il meglio piuttosto che il più comodo. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Simone Ferrara, 32enne patent attorney a Vodafone a Londra, una laurea in ingegneria delle telecomunicazioni alle spalle. Simone già durante la stesura della tesi sperimenta l'evoluto sistema di ricerca finlandese lavorando in un laboratorio nei pressi del Circolo Polare Artico. Dopo la fine dell'università rinuncia ad alcune offerte di impiego in Italia, scoraggiato dalla mancanza di stimoli, e accetta un posto da PhD alla Washington University di St. Louis. Oltreoceano consegue un master, ma prima di concludere il dottorato sceglie di tornare in Europa, dove si specializza in un settore nuovo, l'area brevetti. In pochi anni consegue la qualifica di European Patent Attorney, approdando a Vodafone. Da Londra Simone osserva un'Italia poco internazionale, sempre meno rilevante nell'economia globale e scandalosamente disinteressata a rilanciarsi, sfruttando le sue energie più giovani e di talento. Ci raggiunge ora in linea Paolo Marcovina, presidente di ICP, Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti e Imprese. Buon pomeriggio. La storia di Simone Ferrara è abbastanza paradigmatica. A tornare in Italia dopo essersi fatti le ossa all'estero appare sempre più una retrocessione in Serie B. Dal suo punto di vista, Marcovina, è un discorso valido anche per la nicchia professionale che rappresentate, quella degli esperti in proprietà industriale e intellettuale? Diciamo che sicuramente la cultura brevettuale in Italia non è paragonabile a paesi come l'Inghilterra. Quindi l'esperienza che ha fatto l'ingegner Ferrara è senz'altro interessante, è senz'altro condividibile per una persona che vuole costruirsi un futuro in questa professione. Ci racconta brevemente cos'è ICP? È un'associazione a livello nazionale che raggruppa gli esperti in proprietà industriale che lavorano all'interno di enti o imprese. Quindi si tratta principalmente di aziende di dimensioni medio-grandi che hanno un'attività sostanziosa coi brevetti. L'associazione raggruppa circa 100 soci, che è un numero piuttosto limitato, ma le aziende rappresentate, che sono circa 60, sono fra le più importanti a livello industriale in Italia. Come si accede alla professione in Italia? Lei ha sicuramente ascoltato la storia di Simone. All'estero non si è sentito chiedere chi fosse, da dove venisse, ma soprattutto non hanno guardato in modo, tra virgolette, fossilizzato al suo curriculum precedente. Gli hanno dato un'opportunità, gli hanno dato una chance. È così semplice anche qui? Non ci sono dei canali particolarmente diversi in Italia. Forse la differenza è che in Italia la formazione a livello universitario in questa materia è un po' scarsa, per cui un giovane esce dall'università senza una conoscenza di quello che è lo strumento brevettuale, di quali siano le opportunità di lavoro in questo ambito. Simone, hai una domanda per Paolo Marcovina? In una professione come la nostra, in cui la competizione internazionale è fondamentale e comunque internazionale per sé, come vedi posizionati gli studi italiani e la professione italiana in relazione a quelle straniere? Penso che in Italia ci siano degli ottimi professionisti, ci siano degli ottimi consulenti. Il problema un po' dell'Italia è quello della cultura brevettuale, sia a livello industriale e sia a livello proprio dei professionisti, nel senso che fino a un passato recente la professione è rimasta abbastanza confinata all'ambito nazionale, cui ci si sta un po' aprendo adesso anche a livello di... Io prendo la palla al balzo, Paolo Marcovina, sul tema proprio della proprietà industriale e intellettuale, che sollecita una riflessione su un tema fondamentale per il futuro dell'Italia, l'innovazione. Secondo i vostri dati, in Italia i patent attorneys che lavorano nell'industria sono solo il 10% del totale, sia per la ridotta dimensione media delle aziende, sia per la scarsa conoscenza di questo strumento di tutela da parte delle aziende. In Italia abbiamo solo 469 European patent attorneys contro i 3.643 della Germania e i 2.000 della Gran Bretagna. È un segnale questo, secondo lei, dello scarso investimento in innovazione e brevetti da parte del nostro sistema produttivo? Un indice allarmante di un paese che, per dirlo con la Commissione europea, innova troppo poco? Non sono convinto che questo sia il principale motivo, nel senso che io ritengo che in Italia di innovazione se ne faccia anche buona. Casomai probabilmente il motivo principale è da ricercarsi in una scarsa cultura proprio a livello brevettuale, per cui le nostre aziende sono scarsamente consapevoli di quella che sia l'importanza a livello strategico di questo strumento. E l'Italia stessa è rimasta fuori finora dal brevetto comunitario. Ora forse le cose cambieranno, almeno questa era l'ultima indicazione, però è stata forse un'altra occasione persa. Su questo sono perfettamente d'accordo. Si spera che poi adesso nel prossimo futuro i nostri politici decidano di cambiare rotta e finalmente aderire ad un sistema che non ci può assolutamente vedere esclusi. Grazie a Paolo Marcovina. E domanda finale per Simone Ferrara: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Cercare di capire quello che si vuole fare, almeno nel breve e medio periodo, valutare ciò che l'estero offre e soprattutto ricordarsi di non emigrare semplicemente per condizioni economiche, perché altrimenti si rimarrebbe delusi. Quarta puntata dell'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino al 25 maggio sostituendo la rubrica Jobs Abroad. Premieremo 6 ascoltatori tra i 18 e i 30 anni che invieranno da adesso fino a domani a mezzanotte una email a concorsoeuropa@radio24.it con una proposta concreta da sottoporre agli europarlamentari. In premio per le migliori 6 proposte un viaggio a Strasburgo all'inizio di luglio. Attenzione, la proposta, anche se inviata via email, dovrà essere contenuta in 140 caratteri al massimo. Il tema della settimana è: inviateci una proposta per un nuovo programma europeo di studio a favore dei giovani. Ripeto, un programma europeo di studio. La casella email concorsoeuropa@radio24.it. Ricordate di indicare data di nascita, indirizzo e numero telefonico. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su www.radio24.it. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi, come ogni ultimo sabato del mese, diamo spazio alle lettere che inviate all'indirizzo giovanitalenti@radio24.it. Abbiamo scelto, tra le decine di email che riceviamo ogni mese, quella di Marta. Marta ha appena compiuto una scelta importante, quella di trasferirsi negli Stati Uniti, seguendo il marito che ha ricevuto un'offerta di lavoro oltreoceano. Ma la sua non è solo una scelta familiare. Lascia infatti un impiego in Italia, ma soprattutto lascia un mondo del lavoro che non ha più nulla da offrire a giovani come lei. Mi chiamo Marta, ho 30 anni e sono in partenza per gli Stati Uniti, Detroit per l'esattezza. Il motivo? Diciamo il talento di mio marito. Trentenne come me, una laurea triennale in informatica, un paio di stage retribuiti, mica come quelli che ho svolto io gratis at Amoris Day, e il lavoro trovato nel settore dell'automotive. Dapprima, come consulente di una società esterna dislocato all'interno di una grande azienda del settore, poi assunto in quella stessa azienda, dove si è guadagnato in qualche anno la stima e la benevolenza di capi, capi dei capi e di quelli sopra di loro. Certamente perché vale. Beh, non pecco di vanità se ammetto che anche io sono considerata un talento. Anzi, ero il talento a scuola, all'università e anche ora nella società di PR e comunicazione in cui lavoro ormai da quasi 5 anni. Grandissime soddisfazioni e ricompense personali e pochissime dal punto di vista della remunerazione e dell'avanzamento di carriera. Formale, perché in via informale il carico di responsabilità è via via aumentato sino a divenire il braccio destro del capo divisione. Ma dopo l'ennesima promessa di aumento di livello, ovviamente non mantenuta, l'ennesima mia presentazione ai boss globali della società quale talento su cui puntare in vista di un'integrazione delle competenze a livello worldwide, eccetera, anche questo non mantenuto, eccetera, eccetera. Quando mio marito ha ricevuto la proposta di espatrio temporaneo per un paio d'anni in zona Detroit, non me lo sono fatta ripetere 2 volte. Io mollo tutto e lo seguo. Lascio un contratto a tempo indeterminato, uno stipendio certamente migliorabile ma comunque accettabile, una garanzia sul futuro in cambio di... Non lo so, è vero, ma so che sono elettrizzata l'idea di rimettermi in gioco, di ricominciare tutto da zero, di mettere alla prova le mie competenze lobbistiche nel paese in cui la lobbying è nata e in cui è ancora sinonimo di democrazia. Non mi spaventa andarmene da un paese in cui la tua società si scusa per non poterti ancora dare l'aumento che ti aveva promesso, ricordandoti allo stesso tempo che di questi tempi ci sono un sacco di persone della tua età ancora disoccupate. Non mi spaventa andarmene da un paese dove se vuoi far carriera, un figlio te lo scordi almeno fino ai 40 anni. Non mi spaventa, anzi, è il paese stesso che mi dà la carica per andarmene. Un motivo per restare. O tornare. La ricerca italiana si prepara alla sfida del più grande programma mai varato dall'Unione Europea, Horizon 2020, che nel periodo 2014-2020 prevede un investimento da 71 miliardi. Punto di partenza è il documento Horizon 2020 Italia, biglietto da visita della ricerca tricolore in Europa, presentato anche a Research Italy, la ricerca italiana a portata di click, researchitaly.it, il nuovo portale del Ministero. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Fino a giugno è aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa della settimana è No ai mediocri. Dibattetene in 140 caratteri.